Sì. Ascolta, sì, questa mattina sono arrivato la polizia con una cattiveria, sono portato ragazzi che chiudono la buca, per forza. Perché l'hanno portati questa... via tutti? Eh? Li hanno portati via? No, sì, tre persone che chiudono la buca e tre senza chiudono la buca e fanno sciopero di fame. Sì, e quanti ne hanno portati via, tre? Tre, tutti sono, quelli sono sei. Due tunisini e due, sì, due, cinque, due tunisini e due marocchini in turchiano. Ci puoi dire qualcos'altro sulla condizione di... Sono entrato con una cattiveria, sono portato dei ragazzi e gli altri con la bocca chiusa, con sciopero di fame, questo non è giusto, no, che fanno questa cosa. Senti... Sono entrati con tastoni, anche il pubblico ministero è entrato con loro. Chi è entrato con loro? Il pubblico ministero, un giudice? Sì, il pubblico ministero chi lavora qui. Ah. Ma senti, le motivazioni... Anche lui, entrati... Aspetta, c'è un ragazzo, parla bene. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci diceva che è entrata la polizia questa mattina e sono stati portati via tre persone di quelli che protestavano. Sì, con i bastoni anche. Ah, vi hanno picchiato? Hanno picchiato qualcuno? No, che qualcuno che vi dice di no o qualcosa, vi trattano male proprio. Ho capito. Senti, ne hanno portati via tre, gli altri seguitano lo sciopero della fame ancora? Sì, sì. E com'è la situazione dentro il centro? Non lo so com'è la situazione. Ho capito. Va bene, e che altro vanno detto, insomma, i poliziotti? Hanno detto qualcosa? Il giudice ha detto qualcosa? Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? È caduta la linea, sì.